Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. In Libia si tratterebbe di dipendenti della Bonatti che erano stati rapiti mesi fa. Secondo un testimone citato dall'ANSA, sarebbero stati usati come scudi umani. Intanto sarebbe pronta a partire la prima parte di una missione del nostro paese, un decreto dà il via libera a uomini delle forze speciali. Cambiano gli appalti con la riforma del codice, stop alle gare al massimo ribasso, dice il ministro Delrio. Renzi, il ponte sullo stretto si farà, ma prima le strade. Duplice omicidio a colpi di pistola a Palermo, una delle due vittime era il genero di Giuseppe Bontade, il boss ucciso con la moglie nel 1988. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti sono i soliti, 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp e effettogiorno@radio24.it se ci volete scrivere. Tra l'altro nel corso della trasmissione ci occuperemo anche della vicenda dei mutui che sta facendo tanto discutere il recepimento della direttiva europea. E però ovviamente iniziamo da quello che è successo in Libia. Fausto Piano, 60 anni, di Capoterra, sposato con tre figli, è arrivato in Libia una settimana prima di finire nelle mani dei suoi sequestratori. Salvatore Failla, di Carlantini, provincia di Siracusa, 47 anni, saldatore specializzato, sposato e padre di due figlie di 22 e 12 anni. Sarebbero queste le due vittime italiane in Libia, in una vicenda che ovviamente non è ancora chiara. Le notizie si sono diffuse inizialmente alle 11 di questa mattina, ci facciamo aiutare da Gerardo Pelosi del Sole 24 Ore che sta seguendo da questa mattina quello che avviene. Gerardo, buongiorno innanzitutto. Buongiorno a voi. Allora, che cosa sappiamo fino adesso? Ma sappiamo che due dei quattro rapiti nel luglio del 2015 che facevano parte della società Bonatti, un'azienda di costruzioni presente in Libia dal 79, quindi erano dei veterani, l'azienda è una veterana della Libia, sarebbero stati uccisi. Ancora non è chiaro in quale circostanza, per vendetta o come scudi umani nella zona di Sabrata, quindi a occidente, a ovest rispetto a Tripoli, vicino al confine con la Tunisia. Durante un conflitto a fuoco probabilmente tra miliziani dell'ISIS e forze di altre milizie non islamiste. La Farnesina ha informato i familiari, sta però facendo ancora delle verifiche perché non è chiara la dinamica dei fatti. Che cosa c'è da dire? Che in queste ore anche la presenza italiana in Libia si sta rafforzando, così come hanno fatto anche altri paesi della coalizione, a cominciare dagli Stati Uniti, dalla Francia e dal Regno Unito. Anche l'Italia sta mettendo sul terreno delle forze speciali, lo ha fatto in forza di un decreto subito secretato emesso il 10 febbraio scorso dal Presidente del Consiglio, un DPCM che prevede appunto una catena di comando in capo ai servizi e poi in ultima analisi a Palazzo Chigi per utilizzare anche reparti speciali della difesa, quindi Colmoschin, San Marco, Tuscania eccetera, paracadutisti e Tuscania, per utilizzarli come agenti dell'intelligence e quindi con le garanzie funzionali tipiche degli agenti dell'intelligence. Ecco Gerardo, una domanda. Questo è quello tra l'altro che riportavi oggi sul quotidiano, insomma, la vicenda di questo decreto, sul quale tra l'altro torneremo più avanti e andremo a commentarlo. Quello che vorrei capire da te è se a tuo giudizio quello che è avvenuto oggi ai nostri due connazionali possa essere collegato all'incremento della nostra presenza militare. Penso proprio di no, nel senso che è sempre difficile dirlo, ma sul terreno ormai sono presenti, oltre agli italiani, tutti i grandi principali player, i grandi attori, i protagonisti di questa vicenda, cioè gli americani, i francesi e gli inglesi. Non c'è sicuramente un'operazione mirata contro gli italiani, ma contro gli occidentali in primo luogo. Certo, più tempo passa per la costituzione di questo governo, più difficile si fa il dibattito nel Parlamento di Tobruk, che è quello l'unico riconosciuto dalla comunità internazionale, e più ci troveremo di fronte a fatti analoghi e anche forse molto più gravi. Quindi occorre stringere i tempi per insediare il governo a Tripoli, cosa che dal punto di vista militare non è facile. Il generale Paolo Serra, che è il consigliere militare del inviato per l'ONU Martin Kobler, sta appunto in queste ore a Tripoli Tripoli, tra Tunisi e Tripoli. Tunisi è basata la missione delle Nazioni Unite per cercare di creare un corridoio di sicurezza e per insediare questo governo di Serraj a Tripoli il prima possibile. Solo dopo si potrà richiedere l'intervento della missione internazionale, alla quale a questo punto l'Italia dovrebbe, secondo le prime indicazioni, partecipare con 3.000 unità. Gerardo, sempre per rimanere sulla cronaca, era di questa mattina, proprio pochi minuti prima che si diffondesse la notizia della morte dei due italiani, era di stamattina la notizia che c'era stato proprio a Sabrata, anzi a 20 km a sud di Sabrata, un blitz contro un covo dell'ISIS. Da quel che sappiamo, ci potrebbe essere un collegamento e già lo si sta ipotizzando oppure no? Sì, è esattamente quello che sta cercando di verificare la Farnesina e il governo italiano, soltanto che noi, così come gli altri paesi, non hanno più un'ambasciata e anche le comunicazioni non sono agevoli, non sono semplici, e quindi si va sempre un po' derelato, cioè si parla con qualcuno che a sua volta si è informato, quindi non ci sono mai informazioni dirette, ma diciamo che le operazioni mirate, quelle fatte dagli strike americani, quelle fatte dai droni, cioè di colpire i centri di addestramento dell'ISIS, dove l'ISIS si è incistato in maniera più strutturata, questo è un po' la strategia in questa fase prima dell'insediamento del governo, e quindi è probabile che questo episodio del conflitto di Sabrata sia legato anche alla morte dei due utilizzati probabilmente come scudi umani. Ti ringrazio intanto, grazie a Gerardo Pelosi, con il quale torneremo a collegarci più avanti nella seconda parte della trasmissione per tornare a fare un punto su queste vicende, tanto su questa quanto sulle vicende militari torneremo ad approfondire nel corso sostanzialmente di tutta la trasmissione. Nel frattempo passiamo alle altre notizie, anzi prima di passare alle altre notizie vediamo di fare un punto su quelle che sono le reazioni politiche, le prime reazioni politiche che abbiamo su quello che è avvenuto. Lo facciamo con Elisabetta Fiorito. Elisabetta, buongiorno. Sì, sono in corso verifiche, siamo stati informati dalla Farnesina, a dirlo il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Del Rio, al termine del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, e da parte dei gruppi parlamentari si chiede che il Governo venga a riferire in aula alla Camera su quanto è successo ai nostri connazionali uccisi in Libia. La richiesta presentata da Renato Brunetta di Forza Italia è stata appoggiata da tutti. Per Brunetta le informazioni sono incerte e questo aumenta la nostra angoscia. Il COPASIR ha convocato il sottosegretario con delega ai servizi segreti Marco Minniti, che verrà sentito alle 14.30. Attacca Carlo Sibiglia del Movimento 5 Stelle, si apprende di altri morti italiani. Dopo il caso Reggio Aeni, il governo latita nelle scelte, gli italiani sono sempre meno sicuri. Per Paolo Romani di Forza Italia invece urge un intervento per stabilizzare l'area. A te Simone. E grazie a Elisabetta Fiorito per questi aggiornamenti. Si parlava di stabilizzazione dell'area, una stabilizzazione che è importante anche per un altro fronte, che è l'emergenza umanitaria e non solo umanitaria, che riguarda i migranti. Il punto di oggi. Non venite in Europa. Più chiaro di così il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk non poteva esserlo. Su Twitter, poco dopo l'incontro con il premier greco Tsipras ad Atene, il presidente del Consiglio europeo ha scritto un appello ai migranti economici potenzialmente illegali. Non venite in Europa, non date retta ai contrabbandieri, nessun paese europeo sarà un paese di transito. E quei paesi di transito Tusk li ha appena attraversati sulla rotta balcanica per arrivare domani ad Ankara e preparare il vertice Europa-Turchia del 7 marzo a Bruxelles. Tusk ha anche difeso l'uso delle barriere di filo spinato contro i migranti, sottolineando che la messa in sicurezza dei confini esterni dell'area Schengen in Europa è una precondizione per risolvere la crisi. Su uno di questi confini, fra la Grecia e la Macedonia, premono 10.000 migranti ammassati alla frontiera. Stamattina un gruppo di loro ha occupato i binari di una linea ferroviaria che collega i due paesi, chiedendo alle autorità di Skopje di consentire loro l'ingresso in Macedonia e proseguire il viaggio verso il nord. A centinaia di chilometri di distanza, a Calais, la giungla resiste. Nella bidonville che le autorità francesi stanno cercando di smantellare, la notte è trascorsa senza incidenti, ma alcune decine di migranti si sono cuciti la bocca per protesta contro lo sgombero del campo. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E questo il quadro dunque dalla situazione dei migranti. Tra poco torneremo su tutto questo e sugli aggiornamenti che riguardano soprattutto la Libia. Nel frattempo io vi do conto delle dichiarazioni del leader leghista Matteo Salvini nel corso di una conferenza stampa alla Camera, che dice: Renzi ha le mani sporche di sangue tanto in Libia quanto in Italia. In Italia tifa libere dei delinquenti sull'immigrazione ed è complice del terrorismo internazionale, mentre dalla Libia giungono delle notizie. Questo è quello che dice Matteo Salvini, appunto. Passiamo in tanto, come si diceva, le altre notizie, iniziando dal Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al codice degli appalti, mentre il Ministro Delrio e il Presidente del Consiglio Renzi parlano anche del ponte sullo stretto. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Codice appalti che dà attuazione alla legge delega approvata a gennaio e che recepisce la direttiva europea sulla materia. Al centro del nuovo provvedimento ci sono le norme sulla qualità del progetto che devono garantire la certezza dell'opera, i suoi tempi e costi. In particolare, ha spiegato il ministro delle infrastrutture Delrio, si dice basta alle gare al massimo ribasso per una scelta che coniuga prezzo e qualità. Ed ancora si stabilisce che il rischio operativo deve essere in carico al privato. Lo Stato non è obbligato al riequilibrio per forza. Superata anche la legge obiettivo con la fine delle procedure straordinarie. In tema di appalti e di grandi opere, intanto oggi il Presidente del Consiglio Renzi ha riaperto al ponte sullo stretto di Messina. Verrà fatto prima o poi, ha spiegato il Premier. L'importante è che prima portiamo a casa i risultati di opere incompiute, perché qui ci sono solo quelli che pensano di arrivare e portare a casa progetti faraonici. Linea questa confermata al termine del Consiglio dei Ministri dallo stesso Delrio. Sentiamo. Il Presidente del Consiglio ha detto cose assolutamente condivisibili, cioè che sappiamo tutti che questo, il Paese ha molte priorità e che lui ritiene e si ritiene che però il ponte sullo stretto sia una delle opere da valutare seriamente per collegare la Sicilia con la Calabria e per assicurare collegamenti effettivi. Quindi stiamo continuando a lavorare sulle priorità e continuando però a non dimenticare che c'è questa prospettiva. Questa è la risposta, siamo perfettamente e completamente in linea. Capitolo mutui, infine Simone, governo al lavoro per trovare un compromesso dopo le polemiche di ieri. L'ufficio di presidenza della Camera ha sospeso intanto 8 deputati 5 Stelle per le proteste in aula. È tutto, linea allo studio. E grazie anche a Vincenzo Miglietta per questi aggiornamenti. Della vicenda mutui torneremo a parlare più avanti, lo faremo con Giovanni Parente del Sole 24 Ore per vedere di fare un punto un po' più chiaro su com'è la disciplina adesso e su come si sta tentando di cambiarla. Intanto passiamo a parlare di un'assemblea molto attesa, ieri ve l'avevamo accennato e poi torneremo naturalmente anche a parlarne domani, è l'assemblea della Banca Popolare di Vicenza che si svolgerà sabato con molti soci evidentemente inferociti. Facciamo un punto su come ci si sta preparando a questa assemblea con Marco Ferrando del Sole 24 Ore. Marco, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, che notizie abbiamo oggi? Ma le notizie che abbiamo sono anzitutto una partecipazione attesa molto forte. I soci della banca in totale sono più di 100.000, di questi circa il 10%, quindi 9-10.000 ha staccato il biglietto, si dice così, quando si chiede la partecipazione all'assemblea. Quindi se i numeri verranno confermati è possibile che poi alla fine magari qualcuno rimanga a casa, però si va verso un'assemblea record, perché peraltro non si terrà alla Fiera di Vicenza, che solitamente ha ospitato questo appuntamento, ma a Gambellara in uno stabilimento affittato appositamente per questo appuntamento. Quindi tanta gente, sicuramente tanta rabbia da parte di qualcuno che anche, come dire, annunciato che si presenterà con munito di fischietti, insomma farà un po', la butterà un po' in caciara, però è anche vero che i voti a cui saranno chiamati i soci sono importantissimi. C'è sul tavolo la trasformazione in SPA, l'aumento di capitale, la quotazione, con la Banca Centrale Europea che ha detto e scritto in una lettera che abbiamo pubblicato ieri sul Sole che se non verranno approvati tutti questi punti, di fatto il commissariamento e quindi, come dire, il congelamento della banca potrebbe essere una prospettiva molto probabile. Ti ringrazio, grazie a Marco Ferrando che torneremo a sentire domani proprio da Vicenza. Ci occupiamo adesso dell'emergenza topi, la cosiddetta emergenza topi. Ieri ho oscurato una serie di novità presentate dalla Sovrintendenza Speciale Archeologica di Roma. Qual è l'emergenza topi? Ve l'abbiamo raccontato, ossia il fatto che lo stesso soprintendente Francesco Prosperetti aveva detto: attenzione, ce ne sono veramente troppi, tanto che era stato chiuso un desk della biglietteria del Palatino e del Foro Romano e anche del Colosseo proprio perché appunto c'era un topo, il dettaglio un po' macabro, che era morto appena sopra, il sangue colava su questo desk. Ci sono però, dice Prosperetti, una serie di novità e forse insomma questa vicenda dei topi l'abbiamo un po' esagerata. Sentiamo. Questa occasione ho scoperto che a Roma fa più notizia un topo di un piano organico di interventi per valorizzare i monumenti e le attrazioni culturali di Roma. È stata per me una sorpresa, ma le cose vanno così. Il topo c'era, ma devo dire che al Foro Romano è un grande pezzo di campagna all'interno di Roma. Ci stanno anche i ricci, i conigli, ci sono tante manifestazioni di vita naturale. E purtroppo quel topo si è venuto a morire in un entercapedine della nostra biglietteria e questo ha creato qualche problema. Però l'abbiamo prontamente risolto. La notizia è stata determinata dal fatto che mi hanno chiesto perché era chiuso lo sportello della biglietteria. Ho dovuto dire che c'era stato questo problema. Quindi nega che ci sia una emergenza topi così devastante. Che a Roma girino un po' più di topi del normale è cosa nota da tempo, ma non è compito mio porvi rimedio. Secondo lei bisognerebbe fare di più però? Noi la derattizzazione delle aree archeologiche è una delle cose che facciamo con regolarità. Ripeto, sono quasi 20 ettari di terreno naturale all'interno di Roma, quindi può succedere. Così dunque il soprintendente Francesco Prosperetti. Andiamo a chiudere questa prima parte per parlare di calcio e per parlare della partita di ieri, direi. Insomma, abbiamo la finale di Coppa Italia, l'Inter l'ha sfiorata per un attimo, Dario Ricci, eh sì, anzi anche per qualcosa in più, perché non ci avesse messo le mani Neto proprio all'ultimo istante su Perisic prima dei supplementari, forse staremo qui a commentare una remontada che per quello che si è visto ieri sarebbe stata pienamente meritata. Invece in finale ci va la Juventus, ma alla fine questa partita, Simone, ha creato uno stato d'animo particolare, un Inter che prima era in crisi e che ora è invece esaltata per quella che tutto sommato rimane e resta un'eliminazione, la Juventus che si preoccupa un po' per quella che però alla fine è pur sempre una vittoria, una qualificazione in Coppa Italia, ma che qualche tarlo lo mette nello spogliatoio bianco-nero per quanto riguarda l'approccio, la mentalità che Allegri vorrebbe sempre al massimo e che invece ieri al massimo non è stata. L'Inter invece da questa quasi rimonta può ripartire perché è ancora in corsa quantomeno per la qualificazione in Champions. All'Atere da notare anche una polemica che coinvolge uno degli uomini simbolo della Juventus, Claudio Marchisio, ieri assente davanti alla TV, che via Twitter ha polemizzato con i telecronisti Rai in modo anche pesante, parlando di telecronaca da non vedenti per il commento dei telecronisti Rai in merito ad una ammonizione combinata all'attaccante Zaza. Polemica che magari è destinata ad esaurirsi in breve, ma che dà anche l'idea di come qualche spia rossa si stia accendendo sul quadro della capolista. Staremo a vedere. Grazie al nostro Dario Ricci. Un aggiornamento appena arrivato dalle agenzie e che riguarda la nostra notizia di apertura, sulla quale torneremo tra poco, ossia la morte dei due italiani in Libia. Sarebbero stati uccisi durante un trasferimento alla periferia di Sabrata. Il convoglio sul quale si trovavano, secondo quanto si è appreso, questo riferisce l'ANSA, in ambienti giudiziari, immaginiamo ambienti giudiziari libici, sarebbe stato attaccato dalle forze di sicurezza libiche e tutti i passeggeri sono morti. Le salme sarebbero state recuperate poi dai miliziani, quindi sembra perdere corpo da questo punto di vista il collegamento che si era fatto con il raid contro l'ISIS avvenuto ad una ventina di chilometri da Sabrata. Di tutto questo torneremo a parlare tra un attimo, lo faremo con Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, che delle vicende di Sabrata ha narrato spesso anche nelle ultime settimane. Intanto il traffico. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta Effetto Giorno. Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: due italiani uccisi in Libia, si tratterebbe dei dipendenti della Bonatti che erano stati rapiti mesi fa, secondo un testimone citato dall'ANSA sarebbero stati usati come scudi umani, ma al momento ci sono varie versioni divergenti, ci arriveremo tra un attimo. Intanto sarebbe pronta a partire la prima parte di una missione italiana, un decreto dal via libera a uomini delle forze speciali nel paese. Cambiano gli appalti con la riforma del codice, stop alle gare al massimo ribasso, dice il ministro Delrio. Renzi, il ponte sullo stretto si farà, ma prima le strade. Un duplice omicidio a colpi di pistola a Palermo, una delle due vittime era il genero di Giuseppe Bontà, del boss ucciso con la moglie nel 1988. Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Ciao Alberto, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Allora, cosa sappiamo al momento? Vediamo un attimo di fare un punto. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Le notizie in primo piano, sicuramente quella dei due italiani uccisi in Libia. Si tratterebbe di dipendenti ed abbonati che erano stati rapiti mesi fa, Fausto Piano e Salvatore Failla. La Farnesina ha detto che forse è così, non ci sono ancora conferme definitive. Secondo un testimone citato dall'ANSA, sarebbero stati usati come scudi umani. Intanto sarebbe pronta a partire la prima parte di una missione italiana, un decreto dà il via libera a uomini delle forze speciali nel paese, a quanto pare con ruolo di intelligence. Cambiano gli appalti con la riforma del codice, stop alle gare al massimo ribasso, dice il ministro Delrio. Ha appena commentato il presidente dell'ANAC, l'autorità nazionale di controllo anticorruzione, per bocca del presidente Raffaele Cantone, dice una piccola rivoluzione copernicana. E poi il duplice omicidio a colpi di pistola a Palermo, una delle due vittime era il genero di Giuseppe Bontà, del boss ucciso con la moglie nell'88. La borsa. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta Effetto giorno. Eccoci di nuovo, effetto giorno, le notizie in 60 minuti e siamo di nuovo in linea con Gerardo Pelosi del Sole 24 Ore per parlare della vicenda dei due italiani che sono stati uccisi in Libia. Come già vi dicevamo prima, non è ancora chiaro perché fonti e notizie si accavallano, come non è ancora chiaro come tutto questo sia avvenuto, perché arrivano in queste ore anche indiscrezioni che giungono dalla Procura di Roma, da fonti giudiziarie citate dall'ANSA, secondo le quali sarebbero stati uccisi durante un trasferimento, mentre inizialmente si era ipotizzato che fossero morti durante un'azione di forze speciali non meglio identificate nei confronti appunto di qualcuno dell'ISIS. Vediamo se abbiamo aggiornamenti. Gerardo, eccoci. Sì, è corretto quello che dicevi, questo anche per testimonio un poco il quadro di confusione e anche di grande instabilità che si sta vivendo in quelle zone della sponda sud del Mediterraneo. Fausto Piano e Salvatore Failla, cioè due dei quattro italiani della ditta Bonatti di Parma che erano stati rapiti nel luglio del 2015, erano stati separati dagli altri due colleghi che si chiamano Gino Pollicardo e Filippo Calcagna. E ieri a Sabrata si trovavano Piano e Failla a bordo di uno dei mezzi di un convoglio dell'ISIS che è stato attaccato dalle forze di sicurezza libiche. Quindi diciamo che non erano stati utilizzati come scudi umani, eccetera, ma è semplicemente durante un'azione di trasferimento da un covo all'altro che sarebbero rimasti incappati in un conflitto a fuoco in cui appunto le forze di sicurezza libiche hanno fatto fuoco e li hanno colpiti. Questo è un danno collaterale e dimostra di come il quadro sta peggiorando. Io poco fa ho chiamato l'ultimo ambasciatore italiano a Tripoli, che è Giuseppe Buccino, che diciamo era riuscito fino a quando era in sede, aveva l'ambasciata aperta, l'ambasciata italiana è stata l'ultima a chiudere oltre un anno fa, era stato quello che era riuscito a liberare tantissimi ostaggi del gruppo ENI, della SNAM, ma lui stesso mi diceva che il quadro adesso si è molto molto peggiorato e anche questi due si trovavano in una zona dove non si dovevano trovare, dove le informazioni anche italiane non li avevano identificati in quella zona. Quindi diciamo la situazione è veramente peggiorata e anche le fonti di informazioni tradizionali per noi italiane non sono più così affidabili. Così affidabili, evidentemente. Io intanto ti ringrazio, Gerardo Pelosi del Sole 24 Ore. Vi riferisco della notizia battuta adesso da Asca News, secondo la quale un funzionario locale di Tripoli ha detto alla BBC che per la liberazione dei quattro italiani rapiti in Libia era stato chiesto un riscatto di 12 milioni di euro. Ecco, questo è quello che forse è avvenuto in passato. Quello che non sappiamo è in che mani fossero queste persone adesso, perché come ci ha spiegato Alberto Neghe, ci ha spiegato anche Gerardo Pelosi, c'era stato detto che non erano stati rapiti dall'ISIS ma da milizie, probabilmente appunto anche a scopo scopo di estorsione, un sequestro a scopo di estorsione, e può darsi che nel frattempo invece siano stati trasferiti a qualche gruppo radicale. Andrea Margelletti, presidente del CESI, Centro Studi Internazionali, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, grazie all'ospitalità e naturalmente un saluto ai vostri ascoltatori. Per parlare soprattutto con lei dell'aspetto militare a questo punto della vicenda libica, perché abbiamo appreso in queste ore dai giornali, lo ha scritto anche lo stesso Gerardo Pelosi, di un decreto firmato dalla Presidenza del Consiglio che di fatto autorizza l'impiego di alcune nostre forze speciali sul terreno. Iniziamo, come dire, con i boots on the ground, come si dice in gergo. Che valutazione dà? Iniziamo a dire che queste cose si fanno ma non si dicono, quindi certi decreti dovrebbero rimanere riservati perché non ha alcun senso. In effetti è stato segretato, però insomma evidentemente sì, il punto è che certe cose le devono sapere chi le deve sapere, e quindi non ha alcun senso far uscire la notizia che l'Italia è pronta a inviare dei nuclei di operatori delle forze speciali, perché come si suol dire dà un vantaggio totalmente, come così, inutile a chi ci sta aspettando, diciamo, non a braccia aperte. Questa è la valutazione sulla pubblicità, per così dire, sì, del decreto. E mentre invece, dal punto di vista dell'azione, il numero è limitato, poche decine speciali, di persone. Sì, sono prego. Forze speciali, quindi parliamo di numeri assolutamente piccoli, di nuclei che vanno dalle 8 alle 10 persone, più un comando di dispiegamento dispiegabile sul terreno per il comando e controllo e le comunicazioni, quindi veramente stiamo parlando di numeri minimi, ma per le forze speciali è la qualità che conta, non il numero, quindi le forze speciali italiane hanno una riconosciuta abilità e si va verso quello che probabilmente ha più senso in questo momento, cioè verso un'irachizzazione del conflitto libico, cioè non l'impiego massiccio di personale sul terreno, ma nuclei di elementi ad alta specializzazione col supporto aereo. Questo perché evidentemente è stato compreso che i libici, diciamo quelli, il governo regolare, ammesso non concesso che un giorno avremmo il piacere di vederlo, di vedere migliaia di soldati occidentali a casa loro, forse tutta questa voglia non ce l'aveva. Evidentemente no, ce lo riferiva poco fa anche Alberto Negri, che ci diceva appunto il sentimento antioccidentale, per così dire, in questo momento anche in Libia sta crescendo. La ringrazio, grazie per essere stato con noi, ad Andrea Margelletti, presidente del CESI, il Centro Studi Internazionali. Prima di andare a chiudere, a sentire il traffico e poi Mario Platero, come sempre a quest'ora, abbiamo in linea con noi Giovanni Parente del Sole 24 Ore. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Simone. Per cambiare decisamente argomento e parlare di questa vicenda dei mutui, il recepimento della direttiva europea, che la facciamo con un titolo che abbiamo visto forse un po' facile in queste ore, che porta al pignoramento della casa se non paghi 7 rate del mutuo. Allora, molti si stanno chiedendo in queste ore, ma che cosa c'è di diverso? Se non pago le rate del mutuo, il pignoramento avviene già. Ci dici che cosa cambierebbe? Allora, la novità principale è che contraente e banca possono mettersi d'accordo al momento della firma del contratto di mutuo o nella formulazione attuale della norma, anche successivamente, per evitare di andare all'asta giudiziaria, e in questo modo la banca, in caso di non adempimento, cioè io non pago un tot di rate di anche non consecutive, la banca può mettere direttamente in vendita l'immobile sul mercato, ricavarne l'importo dovuto e andare così a estinguere il mutuo, con una garanzia per il contraente che è stata prevista, cioè che nel caso il valore dovesse essere eccedente rispetto a quello appunto del pattuito per mutuo, questa somma, questa differenza in positivo andrebbe al consumatore contraente. Certo. È una norma che fa molto discutere, perché in qualche modo si è ipotizzato che verrebbero meno una serie di garanzie per il consumatore, perché sarebbe appunto più esposto alla vendita, tra virgolette, facile del proprio immobile, piuttosto appunto alla procedura, cioè, che avviene adesso. Cioè, per semplificare, la banca può avere interesse a vendere la casa ad un prezzo, l'immobile in genere, ad un prezzo che basta che gli copra quello che manca del debito, no? La parte non pagata del debito, mentre invece l'asta giudiziaria può consentire un ricavo maggiore mediamente e consentire dunque anche a chi non ha pagato queste rate ricavarci qualcosa, detta semplicemente così? È un ragionamento corretto che esemplifica molto bene quello che potrebbe essere uno dei rischi. Da questo punto di vista, quindi, si sta cercando un po' anche sulla pressione parlamentare forte del Movimento 5 Stelle, ma anche tutte le forze politiche in questo momento sono molto sensibilizzate a intervenire su questo decreto, a fare delle modifiche per in qualche modo calmierare l'effetto della norma una volta che entrerà in vigore. Quindi, per esempio, specificare che deve esserci una certa importo delle rate del mutuo che sono state già pagate e che funzioneranno un po' come una sorta di paracadute, cioè, certo. Se io ho pagato l'80% della rata del mutuo non posso vedermi pignorata immediatamente la casa, certo. Ad esempio, facciamo un esempio banale. Altra cosa è capire se questa norma è retroattiva o meno, si tende a escluderlo, però insomma sono precisazioni che vanno fatte nel momento in cui si scrive una norma, non dopo. Non dopo, evidentemente. Vedremo come andrà a finire anche questa. Intanto ringrazio Giovanni Parente del Sole 24 Ore, il traffico a Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.